24 mattino. L'Italia si desta. Buongiorno, buongiorno da Gianfranco Fabi, eccezionalmente qui questa mattina, mattino del lunedì 10. Alessandro Milan si è preso un giorno di vacanza ed eccoci a fare due chiacchiere insieme per introdurre questa giornata, una giornata fredda, già stamattina erano 0 gradi a Milano, avete sentito le previsioni del tempo, si prevede una settimana fredda sotto il profilo meteorologico, c'è solo un piccolo spicchio di luna che ci rallega, ci dimostra che in fondo il cielo è sereno, speriamo che sorga il sole. Un sole un po' difficile da sorgere sugli altri fronti, da vedere sorgere sugli altri fronti. Lo stesso Presidente del Consiglio Mario Monti l'ha detto un po' metaforicamente, venerdì sera il re sole si sta abbandonando e quindi ci sono un po' di nebbie sulla politica italiana, nebbie difficili da diradare. I giornali di oggi sono tra il preoccupato e il curioso nel cercare di giudicare e di vedere quale sarà la prospettiva di questo paese dopo le dimissioni ormai annunciate, ma certe, di Mario Monti dopo l'approvazione della legge di stabilità. Buongiorno Alberto Forchielli. Buongiorno, come stai? Molto bene, ciao. Tu dove sei di bello? Sono a Monaco, in Germania. Ah, Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, un grande conoscitore dell'altra metà del cielo, della Cina, dove passa gran parte del suo tempo per affari, indubbiamente, ma anche per conoscere questa realtà. Come dalla Germania, ma con gli occhi un po' cinesi, come vedi questa Italia, Alberto? Ma I tedeschi non hanno dato grande spazio, perché ormai Berlusconi l'ha detto troppe volte, no? Vado, non vado. All'inizio ero molto preoccupato, ormai è diventata una barzelletta, per cui si è un po' bruciato da solo, non fa gran notizia. Ha fatto molta più notizia la vittoria di Bersani alle primarie, per cui la mia opinione personale è che, insomma, le elezioni ci dovevano andare in marzo, ok? Più o meno. E già il mondo finanziario mondiale era preoccupato di questo cambio di governo, di queste elezioni politiche, per cui sono anche già scontate nel prezzo, secondo me. Mm-hmm. Io non credo che vedremo grandi salti oggi nello spread. Beh, noi dobbiamo tirare. Ormai i mercati lo sapevano, capito? Certo. Per cui un mese più, un mese meno, non penso che faccia molta differenza. Sì, indubbiamente, forse ha avuto ragione Mario Monti a annunciare, ha detto, ci sono alcune dichiarazioni, per esempio c'è un'intervista, alcune dichiarazioni dello stesso Monti su Repubblica Oggi, in cui appunto conferma, mi sono dimesso per lasciare un po' digerire ai mercati, 24-36 ore di pazienza sui mercati in attesa appunto poi della riapertura di oggi, si attende appunto una riapertura con qualche scossone, indubbiamente, anche perché la speculazione poi è sempre un po' in agguato e quindi l'attesa di un rialzo dello spread, quindi di una maggiore difficoltà sui titoli italiani. Già oggi i giornali parlano appunto della possibilità di un intervento del famoso fondo salva crisi, anche se lo stesso Monti dice speriamo che non ci si debba ricorrere. Ecco, quindi c'è questa attesa sui mercati e probabilmente alle 9, quando lascerò poi lo spazio e il microfono ad Oscar Giannino, avremo qualche notizia in più, ma indubbiamente forse hai ragione, ci sarà qualche scossone, ma l'attesa ormai è quella di vedere cosa succederà nella campagna elettorale, che sarà indubbiamente una campagna elettorale aspra e quindi difficile, e poi soprattutto cioè, forse anche, è anche un bene che si sia anticipato, che si anticipi a febbraio. Sì, ma sì, perché già mesi fa la domanda che mi facevano è cosa succede dopo Monti, capito? Per cui era questa preoccupazione, non è che era già presente da mesi, non è che sono stupidi i mercati, ma non così cretini. Lo sapevano che in primavera c'erano le elezioni e lo sapevano che i politici spingevano per tornare in sella, capito? Per cui, voglio dire, non è che sia una notizia eclatante per i mercati, anzi arriva in un momento di massimo screditamento di Berlusconi. Se lui l'avesse detto una volta secca, bene, detto, ridetto, alla fine, capito, Pierina Lupo, capito? Al lupo, al lupo, alla fine ma va a cagare, capito? Ecco, vabbè, detto ma sì, non ne parlano. Un po' efficace, indubbiamente, però ecco, c'è molto di cose riviste, anche questo tentativo di fare un accordo con la Lega, una Lega che aveva avuto grosse difficoltà in passato, che aveva avuto grosse difficoltà proprio interno, che ha dovuto avere, che ha avuto una successione difficile e complessa e non ancora conclusa tra Bossi e Maroni. Ecco, questo tentativo di accordo con la Lega forse è ancora un cavallo perdente. Si farà perché sono due. Si farà perché la Lombardia è troppo importante e il Veneto è troppo importante, per cui secondo me lo faranno, però è un accordo tra zoppi, cioè nessuno pensa che loro possano vincere. La possibilità è invece di raggiungere una capacità di interdizione al Senato. Sì, questo dal punto di vista tattico diciamo può essere vero, però ecco, c'è il fatto che se mettiamolo in questa ipotesi, questa alleanza ricostruita tra Forza Italia o PDL o come si chiamerà il nuovo partito o il vecchio partito e la Lega porterà appunto al successo di Maroni in Lombardia, avremo una Lega che di fatto comunque è un partito tra il 5 e il 10% che controlla le tre maggiori, controllerebbe le tre maggiori regioni del nord Italia, il Piemonte e il Veneto che le controlla già, a cui si aggiungerebbe anche la Lombardia. Direi forse il 70% del PD italiano controllato dal 5%, da un partito che rappresenta il 5%. È un po' una cosa che stride con la logica della democrazia. Sì, infatti la preoccupazione rimane, con questo non voglio dire che sono tranquillo, però Milano docet. 349 238 6666 per i vostri sms, se volete appunto aggiungere la vostra qualche considerazione. Siamo qui con Alberto Forchielli a commentare un po' questa giornata fredda sotto il profilo appunto meteorologico, ma che può essere abbastanza complicata anche sotto il profilo economico e finanziario. Diamo un'occhiata anticipando un po' la rassegna stampa che faremo poi nella seconda parte, dopo le 7:15, anche i giornali di oggi. Il Sole 24 Ore mette in luce le difficoltà delle imprese, la crisi non frena le tasse, la crisi economica non frena la crescita del prelievo fiscale sulle imprese, dice il Sole 24 Ore. Una società di capitali su due lo scorso anno ha pagato più imposte e la pressione tributaria è salita al 36%, indubbiamente la manovra economica è stata particolarmente pesante anche sulle imprese, ma anche sulle famiglie. Il Sole 24 Ore mette appunto in luce che le famiglie italiane hanno appunto pagato molto caramente sulla base di quattro indicatori: consumi, tasso di risparmio, reddito disponibile, dinamica dei prezzi. C'è un indice di sofferenza delle famiglie che in Italia è più alto rispetto agli altri paesi europei, fatto 100 l'indice del paese meno sofferente, la Germania. L'Italia arriva solo a 28 rispetto a una media europea superiore a 50. Ecco, quindi la Germania è un paese dove la crisi economica si sente meno. Alberto Forchielli, è vero? Sì, la crisi economica si sente meno, però la preoccupazione è altissima. Sono molto più consci, sono molto preoccupati del futuro, si sono resi conto che hanno fatto degli sbagli, hanno imposto agli altri paesi europei delle ricette obsolete. Io ho vissuto in prima persona la crisi asiatica del 97-98, quando il fondo impose quelle terapie draconiane a Indonesia, Thailandia e Corea, dove impiegarono 5 anni a ritirarsi su. La Merkel, per ragioni politiche, ha fatto la stessa cosa, ma erano ricette che non funzionavano già 15 anni fa, capito? Capito? Per cui è chiaro che la Germania ci ha imposto una politica di rigore che ci fa accumulare più debito sul PIL, che ci fa entrare ulteriormente in recessione e rende ancora più difficile l'uscita del debito. Se voi, che io faccio una critica a Monti è che avrebbe col suo prestigio dovuto resistere questa cosa in modo più vigoroso, capito? Il problema di Monti è che lui dentro la pensa come la Merkel, capito? Beh, sicuramente Monti è un... sono ricette vecchie, capito? Sono ricette del Fondo Mondiale degli anni 80. Capito? Sono le stesse ricette applicate a Sud America nel 1980 che non si riprese fino all'89 quando alla fine fecero i Brady Bond, sono le stesse ricette applicate alla crisi asiatica nel 97 che non si riprese fino al 2002, capito? Sono le stesse ricette applicate all'Italia, capito? Ecco, quindi, ma il problema che Monti ha detto, il mettere a posto i conti è la precondizione per fare poi una politica di sviluppo, una politica di crescita, e quindi su questo fronte, ecco, forse non ha avuto il tempo o non ha avuto il modo o non ha avuto il sostegno Monti. Ma ne parliamo... fare un po' di tacco punta, ecco. come nelle vecchie macchine da corsa, quando si faceva il tacco punta. Beh, si faceva anche sulla 500 il tacco punta, no? Che l'abbiamo forse usata quando io, soprattutto direi degli anni 60-70, quando la 500 bisognava appunto per cambiare fare queste manovre un po' bizzarre, dato che i cambi di allora non erano quelli di adesso. Ma Alberto Forchielli, resta con noi, ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. 24 mattino. Rieccoci qua ad aspettando un po' questa giornata del 10 dicembre. Si pensava fredda dal profilo meteorologico ed è fredda, freddo in tutta Italia, è fredda, anzi al contrario, un po' calda sotto il profilo politico. Ne parliamo con Alberto Forchielli. Sei ancora con noi, Alberto? Sì, sono qui. Eccoci qua, e appunto parlavamo di queste prospettive dell'Italia, della crisi, di quello che ha fatto Monti, di quello che avrebbe potuto fare. C'è un interessante articolo di Luca Ricolfi sulla Stampa. Luca Ricolfi, un sociologo sempre molto attento e molto, diciamo, drastico ed esplicito nei suoi giudizi, e inizia facendo tre domande. La situazione è davvero peggiore rispetto a 13 mesi fa, quando Berlusconi fu costretto a lasciare? La seconda domanda: la situazione sarebbe oggi migliore se al posto di Monti fosse rimasto Berlusconi? E la terza domanda: se Monti avesse governato in modo diverso, oggi staremmo meglio di come stiamo? Ecco, sono tre domande che faccio prima di darvi le risposte di Luca Ricolfi sulla Stampa, faccio anche ad Alberto Forchielli. La situazione è peggiore di 13 mesi fa? No, è assolutamente migliore. Sotto l'aspetto psicologico, rispetto ai mercati del mondo, sicuramente migliore. Noi staremo peggio, però il mondo ci vede meno peggio. Ecco, qui, perché qui, tutto sommato, il paese si è comportato con grande dignità. Ecco, non abbiamo fatto gli scioperi della Grecia o della Spagna, ossia nella nostra sfiga siamo stati un paese dignitoso. E sarebbe migliore se fosse rimasto Berlusconi? No, per carità. Assolutamente no. Se Monti avesse governato in modo diverso. Ha perso tempo per riagganciare l'Inghilterra, non è stato abbastanza energetico con la Merkel quando poteva, capito? Quando aveva un amore all'authority, è stato troppo professore, lì ci voleva un lottatore. Capito? Ecco, le risposte sono più o meno le stesse che dà anche Luca Ricolfi, magari poi lo vedremo nella seconda parte del programma, nella rassegna stampa. Sì, no, sì, la situazione secondo Ricolfi in Italia è peggiore, ma non solo per la situazione italiana, ma anche perché le riforme che voleva Monti sono state frenate. Sicuramente sarebbe stato peggio se fosse rimasto Berlusconi, e se Monti avesse governato in modo diverso, sì, forse doveva avere, dice Ricolfi, più coraggio, più forza nel governare. Ma saluto Fabrizio Galimberti. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a tutti. E ci ha raggiunto Fabrizio Galimberti, ma ci ha raggiunto nel senso figurativo, perché Fabrizio Galimberti, se non sbaglio, sei in Australia. Esatto. Allora, volevo appunto, ti abbiamo chiamato, abbiamo con noi anche Alberto Forchielli, ma soprattutto ti ho chiamato perché a Milano sono 0 gradi. Allora, a Melbourne quanti gradi sono? Beh, diciamo che oggi sono sui 22-23, ma se ne aspettano 38 fra 2 giorni. E quindi è la città dove ci possono essere le 4 stagioni in un giorno solo, si dice. Ecco, e la politica in Australia? Qui in Italia abbiamo qualche problema, come va? Ah beh, la politica in Australia è molto prevedibile, nel senso che i due grossi partiti di destra o di sinistra, i conservatori, che qui si chiamano i liberali, e i laburisti, hanno un idem sentire molto esteso per quanto riguarda i principi fondamentali della convivenza civile e del modo di gestire il paese. Quindi è una politica, diciamo, al limite della noia, ma io direi che per noi italiani sarebbe una cosa stupenda essere un po' annoiati dalla politica. Invece qui non ci annoiamo, infatti, come ben sai, perché tu poi segui attentamente quello che avviene in Italia, torni spesso in Italia, scrivi praticamente tutti i giorni sul Sole 24 Ore, ecco, qui in Italia c'è qualche problema. Come vedi la riapertura dei mercati, Fabrizio? Beh, certamente la reazione io la vedo con molti se, con molti ma, perché quello che sta succedendo di nuovo in Italia sembra dire no, gli italiani non cambieranno mai, e ci eravamo illusi che Monti avesse portato un po' di stabilità e di serietà, invece la vecchia politica politicante sta riprendendo il cammino. Io sono più ottimista, nel senso che penso che dopo una reazione di malumore dei mercati ci si renderà conto che non si può tornare indietro rispetto al raddrizzamento dei conti pubblici che ha fatto Monti, e quindi penso che tutto sommato l'Italia reggerà all'urto dei mercati. Ecco, se riprenderà la via della crescita è un altro problema, è molto più difficile, però insomma non mi preoccupa eccessivamente la reazione dei mercati. Sì, i mercati appunto saranno attenti, ci sarà un po' di speculazione di qualcuno che vorrà avere qualche presa di beneficio sullo spread che è diminuito. Non bisogna, appunto, come qualcuno ha detto, non bisogna essere schiavi dei mercati, ma non bisogna neanche sottovalutarli. I mercati sono un nostro compagno di viaggio, sono uno strumento importante, ma dobbiamo appunto guardare anche avanti. E allora, Fabrizio Galimberti, rapidamente la priorità che dovrebbe avere il nuovo governo. Ma la priorità dovrebbe essere senz'altro quella di dire che si continuerà in una politica di stretto controllo dei conti pubblici, non ci possiamo permettere di derapare rispetto a quella, ma certamente bisogna fare anche qualche cosa per quanto riguarda lo stimolo della crescita, quindi qualche grossa iniziativa di privatizzazione e di liberalizzazione. Ecco. Grazie Fabrizio Galimberti, un saluto dall'Italia all'Australia, grazie ad Alberto Forchielli che è stato qua nella prima parte del nostro programma, ci risentiamo tra 20 minuti per la rassegna stampa. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, buongiorno da Gianfranco Fabi, tanti saluti da Alessandro Milan che oggi è in vacanza ma tornerà domani, non preoccupatevi, siamo qui con i giornali di oggi. E saluto Maurizio Tortorella, buongiorno Maurizio. Buongiorno. Maurizio Tortorella è vice direttore di Panorama, ci aiuterà a leggere i giornali di oggi. Intanto vi anticipo che più tardi parleremo dei temi della giornata, soprattutto dei temi economici e sociali, dapprima con Alberto Quadrio Curzio, editorialista del Sole 24 Ore, professore di economia politica della Cattolica di Milano, con cui faremo il punto sull'economia italiana, e poi alle 8:30 con Giuseppe Roma, direttore generale del Censis. Il Censis ha presentato il suo rapporto annuale settimana scorsa, un rapporto molto preoccupato sulla situazione sociale italiana, sul passi indietro che sta facendo un po' l'Italia, che sono costretti a fare gli italiani a livello di reddito, a livello soprattutto di prospettive per il futuro. Ma di questo parleremo con Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, con Rossella Bocciarelli, giornalista del Sole 24 Ore, che ha seguito il rapporto Censis. Ma diamo subito un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi. Ovviamente dominano i temi politici. Monti, ecco perché mi dimetto, il Presidente del Consiglio, il mio futuro non lo so ancora, il capo del PDL al vertice di Milano, ha fatto l'accordo con la Lega e la Repubblica. Ezio Mauro ha un'intervista, cioè ha raccolto alcune battute del Presidente del Consiglio Mario Monti dopo appunto appunto la sua decisione comunicata al capo dello Stato sabato di dimettersi. E il Corriere della Sera, Monti, due punti, non si può dilapidare un tesoro. Berlusconi, due punti, dimissioni doverose. Alfano e la crisi, c'è chi ha drammatizzato. Maurizio. Sempre politica sul giornale, torna l'asse Berlusconi e Lega come futuro del centrodestra, un'analisi alla quale partecipa anche Vittorio Feltri. Sull'Unità il titolo d'apertura è l'Europa mai più Berlusconi, ed è una sequenza di giudizi critici negativi che arrivano dalle cancellerie europee e dall'Unione Europea sulla crisi italiana. Diverso invece l'apertura del Sole 24 Ore, che si dedica alle imprese, all'analisi dei bilanci di società per azioni e società a responsabilità limitata. Imprese, la crisi non frena le tasse, le imposte sono aumentate per una società su due. Il Fatto Quotidiano ha un titolo a due fronti: Monti è partito, il partito è scritto in rosso e ha ovviamente un doppio senso, è partito nel senso che ha dato le dimissioni, ma è partito nel senso che sta preparando, secondo il Fatto Quotidiano, anche un suo partito o comunque una coalizione di partiti che potrebbe raccogliere un po' le impostazioni del Presidente del Consiglio. Il Messaggero, crisi, torna l'allarme spread. Napolitano, vedremo cosa faranno i mercati. Questa è stata peraltro l'unica dichiarazione di ieri di Napolitano, il quale ha detto parlerò tra 8 giorni, quando ci saranno i saluti, gli auguri di Natale da parte delle autorità politiche. Ecco, speriamo che tra 8 giorni la situazione sia almeno un po' più chiarita. La Stampa, Monti, la crisi scuote l'Europa, timori dell'Europa per le riforme in Italia, il Quirinale, vedremo cosa faranno i mercati, Berlusconi non temo il professore Bersani, non si candidi e rimanga super partes. E proprio sulle candidature di Monti titola invece il Secolo XIX, la tentazione di Monti, questo è il titolo a piena pagina, il Premier non esclude di candidarsi, l'ipotesi di una maxi lista, Napolitano conferma anche qui che aspetta e vedrà, ovviamente seguirà l'andamento dei mercati come base fondamentale per le prossime mosse, e c'è invece segnalato l'allarme caos per le province sul decreto appunto per la legge che dovrebbe tagliare le province. Sì, questo è un tema che si ripercorre un po' tutti i giornali, questo allarme del governo, ovviamente con le dimissioni anticipate rispetto al previsto del governo Monti, ci sono molti provvedimenti che rischiano di saltare, soprattutto questo delle province è un provvedimento che rischia di saltare anche perché ha molte opposizioni, lo ricorda per esempio Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Ma prima di fermarci per le previsioni del tempo e per il primo spazio, ci sono ancora un po' di giornali forse da citare, vorrei farlo dal Foglio. Il Foglio del lunedì, che è sempre una raccolta di articoli scelti dagli altri giornali, apre invece con i cinguetti di Pontifex, cioè Benedetto XVI. Mercoledì il Papa, che scrive ancora a matita, debutta su Twitter. Il Dalai Lama ha cominciato prima, ha più di 5 milioni di followers. È tutta la prima, la gran parte della prima pagina del Foglio Quotidiano è dedicata appunto a pezzi ripresi dagli altri giornali che spiegano questa presenza del Papa su Twitter con i suoi messaggi che cominceranno a mezzogiorno del 12 forse. Qui ecco un po' di, non diciamo di scaramanzia, però di tentativo di sollecitare la curiosità c'è anche da parte del Papa. E sempre sul Foglio Quotidiano c'è un editoriale, questa volta non è ripreso da altri giornali ma è appunto firmato dall'Elefantina, quindi da Giuliano Ferrara, in cui si dice ora il flop di Grillo non è più solo una mia fissazione. Giuliano Ferrara scrive: la sua vera forza, come quella dei magistrati e dei moralisti insinceri, banali, ottimisti, sta nella complicità dei media. Grillo ha creato il nulla dal nulla e le televisioni e i giornali celebrano da tempo il nulla con toni apologetici. Basta guardare il caso Saviano, sicché vanno per la maggiore le parolacce, gli sbuffi, gli show e le nuotate, il finto schierarsi contro tutto e tutti, i toni da difensore civico della moltitudine impotente derubata del sistema, tutto questo apparato retorico estremamente prevedibile, tipico delle frasi di crisi, populista, senza costrutto e senza senso, potenza di fuoco antidemocratica, linguaggio squadristico molto italiano, italianissimo. Ma, dice ancora Giuliano Ferrara, è ovviamente un fuoco fatuo che solo a essere ipocriti si può saltare con rispetto contegnoso, considerazione politico-logica. Giuliano Ferrara, appunto, con questo attacco a Beppe Grillo, che comunque va in prima pagina sul Foglio Quotidiano. Volevo fare una segnalazione di utilità per i lettori, un articolo di servizio sul Sole 24 Ore, dato che mancano 7 giorni, mi sembra interessante e importante. SOS IMU, un inserto ampio su come pagare la tassa sulla casa. E tra l'altro dicembre è il mese di fuoco, lo ricorda ancora il Sole 24 Ore, per gli accertamenti fiscali l'Agenzia delle Entrate punta a evitare che scadano i termini per effettuare i controlli sugli anni passati. Ma quali sono le tutele? Cosa succede se l'accertamento arriva prima che il contribuente possa presentare le memorie difensive? A quali condizioni scatta il raddoppio dei termini per le verifiche in presenza di reati tributari? A questi e ad altri interrogativi risponde la guida agli accertamenti di fine anno che il Sole 24 Ore offre oggi a chi acquista il quotidiano. In edicola la guida presenta tutte le possibili strategie difensive per i contribuenti, dalla ricerca di un accordo di adesione al possibile ricorso in commissione tributaria di primo grado e successivamente in appello, perché non sempre il fisco ha ragione. Ed eccoci di nuovo insieme, buongiorno a Gianfranco Fabi e buongiorno da Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, che è qui con me per leggere i giornali di oggi. Ma io comincerei questa seconda parte dalla Gazzetta dello Sport, il rompipallone di Gene Gnocchi. Monti ha deciso di dimettersi, ora Napolitano sta pensando a Guardiola. Ecco, forse sta ragionando in termini sportivi. Da notare la Gazzetta dello Sport, che ha tutta la prima pagina occupata, ovviamente come tutti i lunedì del campionato di calcio, con le tre squadre, e sembra che tutte e tre abbiano una grande voglia di vincere, di arrivare in testa. La Juve più forte di prima, il Milan va di corsa, il Grinta Inter super Guardiola è secondo posto, ma che Napoli, tre squadre che si affrontano e che appunto onorano con il loro gioco indubbiamente il campionato. Messi record 86 gol. Ma torniamo alla politica, torniamo ai dati di oggi. Avevo parlato già nella prima parte dell'articolo del commento di Luca Ricolfi sulla Stampa, il dramma di un film già visto. Ecco, Luca Ricolfi molto esplicitamente dice che Monti avrebbe potuto fare molto di più, è stato frenato un po' dal fatto che ha dovuto trattare con i partiti, con i sindacati, e dice, vi leggo appunto uno stralcio di questo articolo, come sempre molto interessante e molto acuto, di Luca Ricolfi: per quanto mi riguarda penso una cosa molto semplice, Monti ha fatto alcuni errori, ma sia il centrodestra sia il centrosinistra ne avrebbero fatti e ne faranno di più e di più gravi. Il dramma che il ritorno di Berlusconi ci riserva e che ci inchioda tutti per diversi anni a vedere un film già visto. Il leader del centrodestra che pensa agli affari suoi e la sinistra che a modo suo e suo malgrado finisce per fare la stessa cosa. Berlusconi, riportando 100-200 fedelissimi in Parlamento, penserà a difendere le sue aziende dal fallimento e se stesso dal carcere. Bersani, portando in Parlamento un drappello di 300-400 uomini e donne a lui più o meno fedeli, sarà costretto a occuparsi a tempo pieno degli affari interni del centrosinistra: come tenere buona la CGIL, come agganciare Casini, come non farlo litigare con Vendola, come dare a tutte le sigle che confluiranno nel carrozzone del centrosinistra onori, posti, poltrone e strapuntini. Affari economici e giudiziari da una parte, affari politici e parlamentari dall'altra. Di governare ancora Luca Ricolfi sulla Stampa? No, non ci sarà il tempo, l'energia e la possibilità per nessuno, chiunque vinca. Quel che ci aspetta è l'ennesima proiezione dell'eterno immarcescibile lungometraggio della Seconda Repubblica, che da 20 anni va in scena in tutte le sale con il medesimo titolo: L'arte nel nuovo governo. Perché sono tutti bravi a criticare Monti, ma nessuno lo fa dicendo che al posto di Monti avrebbe fatto scelte più coraggiose. Sia la sinistra, sia se fosse stata al posto di Monti, avrebbe fatto meno, non più di lui. La destra ci avrebbe regalato un po' meno tasse e più deficit pubblico. La sinistra ancora più tasse e più spesa. È questa la in fondo drammatica, ma molto realistica analisi di Luca Ricolfi sulla realtà italiana. Una politica che rischia di avvitarsi su se stessa, di guardare molto ai propri problemi e di lasciare in secondo piano i problemi del paese. Indubbiamente. Maurizio Tortorella. Il giornale dedica a Monti fondamentalmente la sua apertura. È un commento di Vittorio Feltri intitolato In ginocchio dal Premier, e con un occhiello Le vedove di Super Mario, e ovviamente molto critico nei confronti di Monti e del montismo. Scrive Feltri: insensato il fiume di indignazione che inonda i giornali per le dimissioni di Mario Monti, propiziate dal PDL. La legislatura ormai era conclusa, settimana più settimana meno non cambia nulla. Vorrà dire che le elezioni, anziché il 10 marzo 2013, si svolgeranno in febbraio. Non è una tragedia, scrive Feltri. Tanto più che le leggi di stabilità e di bilancio passeranno regolarmente. Quindi, dov'è il problema? E più inoltre, i tecnici transeunti per definizione si sono limitati a usare il randello fiscale. Ed è quindi evidente quale sarà il taglio che nelle prossime settimane, e da qui alle elezioni sicuramente, segnerà la polemica politica contro il governo dei tecnici decaduto. Segnalo che sull'Unità c'è un'interessante analisi, un sondaggio Tecné, per quello che per carità i sondaggi possono valere, che indica comunque questa situazione. Al PDL, che aveva alle politiche del 2008, ricordo, circa il 37,5% dei voti, questo sondaggio Tecné indica un calo drastico, siamo all'11,9%. La Lega al 4,8%, il PD invece sarebbe al 34,6%, quindi un valore mai raggiunto prima, SEL, Sinistra e Libertà, il partito di Nichi Vendola, al 6%, il Movimento 5 Stelle, quello di Beppe Grillo, al 15,7%. Questo, ricordiamo, è l'Unità, che l'Unità, ovviamente, certo, nel dare forse i voti al PD può esagerare un po', ma indubbiamente una visione ottimistica. La fotografia che tutti i sondaggi sembrano dare è quella di una maggioranza prevalente sul PD, però bisogna vedere poi come influirà la legge elettorale. A proposito dei sondaggi, anche il Fatto Quotidiano riporta appunto alcuni sondaggi, soprattutto appunto, ricordiamo che il Fatto apriva dicendo Monti è partito, pensando a questa volontà di Monti, che anche in seconda pagina si scrive niente Quirinale, rivuole Palazzo Chigi. Il Fatto Quotidiano cita appunto tre sondaggi, dei tre sondaggisti che vanno per la maggiore, Piepoli, Mannheimer e SVG, sulla coalizione, eventuale coalizione guidata da Monti. E secondo Piepoli raggiungerebbe 12-15%, secondo Mannheimer il 15-20%, secondo SVG un 10%, quindi sarebbe comunque superiore al 10%. Poi bisogna vedere con chi potrebbe fare questa coalizione il Presidente del Consiglio uscente. Ovviamente bisognerà vedere le elezioni, ma da qui alle elezioni ci sono comunque tre mesi da passare, con molte priorità che si aspettano di essere varate. Innanzitutto, e su questo sono d'accordo tutti, la legge di stabilità. Sul decreto salva IVA c'è un po' meno accordo da parte, però sembra che ci possa essere un'ipotesi di approvazione, mentre su altri fronti, e tutti i giornali lo dicevamo prima ricordano, le province sono in varo appunto del riordino delle province è in grossa difficoltà. Senza sì il rischio caos, dice ancora il Fatto Quotidiano, così come Repubblica, caos sulle province, scuole a rischio, non solo risparmi sfumati ma tra i 370 e i 535 milioni a regime, ma anche lievitazione dei costi per comuni e regioni, blocco dell'irrigazione periferica dello Stato, città metropolitane soffocate sul nascere. Insomma, un caos istituzionale in piena regola, questo è quello che ci aspetta sul fronte del mancato varo della riforma delle province. Ma ancora su Repubblica, vi segnalo un articolo interessante come sempre di Ivo Diamanti, il cavalier Rieccolo e il muro del professore. Ricordo che Rieccolo è un appellativo che aveva dato Montanelli a suo tempo, quando Fanfani si ripresentò per la terza, quarta o quinta volta come Presidente del Consiglio, e Montanelli l'ho chiamato il Rieccolo. Quindi Rieccolo questa volta è dedicato al cavaliere Berlusconi, e conclude il suo articolo Ivo Diamanti: che si presenti come candidato premier, non come parlamentare ovviamente, visto che senatore a vita, si riferisce a Monti, oppure no, Monti è destinato ad essere il protagonista della prossima campagna elettorale, il nuovo muro che attraversa la politica italiana e divide partiti ed elettori, pro o contro. Ciò rafforza l'idea che le prossime elezioni costituiscano una svolta, perché offrono l'occasione per chiudere la Seconda Repubblica, di andare oltre il berlusconismo, oltre Berlusconi. definitivamente chiude il suo articolo. Ivo Diamanti, ecco, una posizione, come vedete, diversa da quella di Luca Ricolfi sulla stampa. Luca Ricolfi prevede uno scenario da ancora la Seconda Repubblica, con i contrasti all'interno della sinistra, con i conflitti di interesse all'interno della destra. Ivo Diamanti vede nella possibile discesa in campo di Monti qualcosa che spariglia le carte, che porta delle novità sostanziali in politica, che obbliga a schierarsi sulle cose da fare e non solo sulle cose da dire, da promettere o da annunciare, come molto spesso la politica ci ha abituato. E vedremo presto se Monti alla fine si candiderà o meno, o quantomeno se scenderà in campo a favore di un qualche rassemblement politico. Intanto Berlusconi apre alla Lega, segnala il giornale, con un nuovo patto per l'Italia. Ieri un vertice di 3 ore con i big del partito a Milano, ci sono ovviamente ipotesi di un'alleanza alle politiche e poi in Lombardia. E La Russa, l'ex ministro, confida che gli ex AN sarebbero pronti a una scissione o la presentazione della lista separata, probabilmente poi da collegare con quello che uscirà dal PDL. Ecco, su questo c'è un retroscena di Marco Conti sul Messaggero, in cui si afferma esplicitamente che Berlusconi avrebbe chiesto ad Albertini di ritirare la propria candidatura in Regione Lombardia, perché Albertini si è schierato apertamente contro l'alleanza con la Lega. Albertini, peraltro, che è un deputato europeo, che è membro del Partito Popolare Europeo, ha detto che è incompatibile l'essere in questa posizione in Europa, e quindi un'alleanza con un partito che si è schierato apertamente contro l'Europa, contro l'euro, contro gli accordi comunitari. E anche in questo retroscena c'è un'altra informazione, appunto, che parla della un po' di un ultimatum che Berlusconi avrebbe dato agli uomini di Comunione e Liberazione, che da qualche tempo, e raccontano per volontà dello stesso Don Julian Carrón, successore di Don Giussani, scrive Marco Conti, ha preso le distanze da Berlusconi, ma l'affondo ha lasciato il segno è costretto il celeste, cioè Formigoni, a prendere tempo. Con un laconico quanto imbarazzato proverò a convincerlo, riferito ad Albertini. Quindi ci sono questi due fronti in Lombardia aperti per il rientro di Berlusconi, per le alleanze che Berlusconi deve fare sia all'interno con i propri alleati, che sono stati alleati in questi ultimi anni, come appunto Formigoni, sia con la Lega, che è stata alleata fino all'anno scorso, ma che poi ha rotto clamorosamente passando all'opposizione del governo Monti. Rieccoci con i giornali, con l'informazione quotidiana. Maurizio Tortorella. Sull'Unità, in prima pagina, con un'ampia evidenza, una notizia un po' anomala forse per l'Unità, che si intitola Come in Italia si blocca un'azienda, ed è un caso esemplare, la MMC di Merano, un'azienda che produce silicio, è una multinazionale che in Italia ha 2 fabbriche per circa 500 dipendenti, sta incontrando un serio problema di carattere burocratico. L'azienda avrebbe ottenuto dalla provincia di Bolzano tutte le autorizzazioni necessarie a rifornirsi di energia elettrica in Austria, a costi evidentemente molto inferiori rispetto a quelli italiani. E leggo, insomma, l'azienda ha così chiesto di poter realizzare una linea di interconnessione con l'Austria per permettere l'utilizzo di energia di importazione a prezzi europei decisamente più bassi di quelli nazionali. La provincia di Bolzano ha fornito a tempi di record, ovviamente, aggiungo io, al concessionario della rete elettrica nazionale tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione di questo nuovo elettrodotto. Il problema è invece che tutto è fermo da mesi sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, che è l'unico ente competente in questo campo, e quindi la società non ha purtroppo la possibilità di accedere a questi vantaggi, con un problema serio, perché ovviamente il calo di produttività dell'azienda produrrà risultati negativi sull'occupazione e sulle esportazioni dell'azienda, che sono elevatissime, si va fino all'80-90%. Infatti i costi energetici sono uno dei problemi più grossi per la competitività delle industrie italiane. Ma vorrei, spulciando un po' tra i giornali, leggere anche un piccolo straccio dal Corriere della Sera, dove parla di una lettera di una dipendente che diventa una campagna: come spacciare speranza ai pensionati. Gli impiegati delle poste si ribellano al gratta e vinci, immorale venderli agli sportelli, e i sindacati dicono battaglia giusta. E questa questa lettera dice: io il gratta e vinci non lo voglio vendere, perché Poste Italiane si abbassa a questo? Non credo che tutto quello che non è nettamente fuori legge sia legittimo e corretto. Stanno nascendo comunità di recupero per la dipendenza dal gioco d'azzardo. Stiamo vedendo famiglie compromesse da questo vizio che dà dipendenza. Perché la mia azienda vuole incoraggiarlo? Si chiede la sportellista. Io non vorrei che mi si chiedesse di andare contro la mia morale in modo così spudorato. Ecco, questo è un richiamo, un appello che forse merita di essere preso in considerazione e valorizzato, perché il gioco, ecco, si è legalizzato il gioco, lo Stato fa grandi affari sul gioco d'azzardo, si pagano forti tasse, però è sicuramente qualcosa che in modica quantità può essere certamente compreso, ma quando diventa, e come diventa spesso, una mania che da cui non si riesce a staccare, diventa come una droga, e su questo forse lo Stato non può essere complice. Vendere il gratta e vincere le poste forse non è il massimo dell'eleganza. No, tra l'altro le slot machine hanno in questo momento 700.000 addicted, dipendenti da gioco compulsivo, quindi sono di per sé un problema anche sociale. Sì, prego Maurizio. Sempre per restare sulle notizie interessanti, curiose, lontane dalla politica, e forse è il caso di rimanere lontani dalla politica sotto certi aspetti, è un articolo del Giornale che racconta come sempre più italiane, ma aggiungo io anche italiani, fanno colf e maggiordomi, aggiungo io, e sono pronti a lasciare il paese. È un articolo a tutta pagina che racconta come i risultati anomali, indubbiamente, di reclutamento raggiunti da un sito internet, si chiama Nanny Butler, cioè colf maggiordomo, tradotto all'inglese, fondato da una signora di Padova, che negli ultimi mesi ha acquisito 600 candidati, in grandissima parte italiani. Le candidature vengono proposte da tutte le parti del mondo, ovviamente, d'Europa prevalentemente. Il 70% di questi candidati, ma tutti ultra dotati di ultra requisiti, molto ben preparati, quindi c'è la disponibilità di questoro ad andare all'estero, ne piazzano anche abbastanza bene a quel che leggo, perché è italiano, per esempio, trovato sempre da questo sito Nanny and Butler, l'italiano che è andato a fare il house manager, cioè il maggiordomo, il capo maggiordomo della corte reale del Bahrain. Ed è interessante notare quanto alte siano le retribuzioni. Una tata professionista può guadagnare almeno 400 euro a settimana, un maggiordomo dagli 800 ai 1000 euro sempre a settimana. Ma in fondo fare il servitore di case importanti o di case reali può essere anche un mestiere nobile, un po' meno nobile fare il servitore dei politici locali. E io vorrei avviarci a conclusione tornando un po' sulla politica, segnalando un'intervista del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Angelo Bagnasco, al Corriere della Sera, in cui l'intervista a Gian Guido Vecchi, in cui il cardinale Bagnasco esprime la sua preoccupazione, una preoccupazione direi che è largamente condivisa e condivisibile, sullo stato del paese, sulla coesione sociale, ma esprime anche una prospettiva di grande fiducia nella capacità di ripresa. Dice il cardinale Bagnasco: la preoccupazione più grande è la tenuta del nostro paese e quindi la coesione sociale. Fino a quando ce la farà l'Italia? Un anno fa il problema era metterla in sicurezza dentro una crisi di sistema che era stata sottovalutata per troppo tempo, e di fronte a una classe politica incapace di fare riforme effettive, spesso solo annunciate. Nel frattempo il governo tecnico ha messo al riparo da capitolazioni umilianti e altamente rischiose. E dopo questa premessa il cardinale Bagnasco conclude: il fermento nelle file del laicato cattolico per un impegno a favore di una buona politica ha registrato in questi ultimi mesi una significativa accelerazione. D'altra parte, pensare alla transizione del nostro paese a prescindere dalle sue radici cristiane appare un'operazione antistorica, puntualmente contraddetta dall'esperienza di tanti che sperimentano la prossimità dei servizi sociali della Chiesa sparsi capillarmente ovunque. Il cristiano, è ancora il cardinale Bagnasco in questa intervista al Corriere della Sera, sa di essere esperienza non di regresso ma propulsiva, una forza di modernità un'operazione di continuo rinnovamento, capace di proporre modelli di vita in cui l'esasperazione del consumismo e del liberalismo è superata in vista di uno sviluppo più solidale ed equilibrato. Ecco, se queste parole del cardinale Angelo Bagliasco lasciano preludere a un impegno un po' più preciso, deciso e forse un po' meno diviso dei cattolici all'interno della politica, è ancora presto per dirlo, ma certamente quello che di positivo ci può essere, questo lasciatemelo dire concludendo, in questa fase di crisi politica è anche forse una voglia di riaggregare, di ricomporre una politica italiana in cui l'offerta politica non può più essere quella di prima, deve rispondere meglio anche alle esigenze del paese. Ci lasciamo qui, ringrazio anche Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, di essere stato con me questa mattina, ci risentiamo alle 8:15. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Buongiorno, rieccoci qua con voi da Gianfranco Fabi, eccezionalmente Alessandro Milan, una giornata di vacanza, di riposo, buon riposo, tornerà sicuramente domani, ma alcuni ascoltatori ci hanno chiesto dov'è Milan, con i messaggi sms 349-238-6666, potete mandarli anche voi per commentare i fatti del giorno. E buongiorno professor Alberto Quadrocurzio. Buongiorno. Buongiorno professore, editorialista del Sole 24 Ore, professore emerito di economia politica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, un economista di fronte a una svolta dell'Italia, una svolta diciamo forse che nessuno si augurava così rapida e così densa di incognite. C'è attesa per la riapertura dei mercati, lo ha detto lo stesso presidente Napolitano ieri, manca solo poco più di mezz'ora, forse è inutile fare previsioni, aspettiamo a vedere che cosa succederà, però quello che vorrei chiedere al professor Quadrocurzio innanzitutto è: ma è così importante guardare i mercati, professore? Io ritengo che l'Italia in questi 12 mesi abbia fatto delle operazioni correttive di finanza pubblica gigantesche che hanno messo sotto governo la finanza pubblica stessa, che il nostro deficit su PIL dal punto di vista strutturale arriverà sicuramente al pareggio di bilancio nel 2013. Da questo punto di vista perciò gli spread possono fare quello che vogliono, ma la finanza pubblica è sotto controllo. Però se gli spread dovessero aumentare nel corso del tempo, perché ci vuole un po' per la trasmissione di un aumento degli spread e quindi dei tassi sulla media dei rendimenti dei titoli di Stato, andremo ad aggravare di nuovo il servizio del nostro debito pubblico e quindi difficilmente potremmo raggiungere quel pareggio di bilancio che allo stato attuale è invece certo. Detto questo, c'è da sperare che i mercati guardino più alla sostanza economico-finanziaria che ha la contingenza politico-elettorale. È difficile tuttavia, come ha detto lei prima, fare previsioni. Ecco, i mercati appunto dovrebbero guardare un po' a medio termine, dovrebbero avere, in fondo qualcuno dice, avere già scontato il fatto che Monti si sarebbe prima o poi dimesso e che quindi quello che resta di fronte all'Italia è la cosiddetta agenda Monti, anche se adesso ovviamente in clima preelettorale un po' le posizioni tendono sempre più a divaricare, soprattutto sul fronte del centrodestra di Berlusconi ci sarà una critica sempre più aperta alle manovre portate avanti sul fronte del rigore da Monti. Però, come ricordano molti giornali che abbiamo letto nella rassegna stampa precedente, c'è anche il fatto che è stata proprio la politica a frenare, diciamo così, la fase 2, lo sviluppo delle iniziative di risparmio, del taglio dei costi della politica, su cui si è fatto molto poco. Ecco, il taglio dei costi della politica, non solo le province, ma la riduzione del numero dei parlamentari, la semplificazione, tutti questi provvedimenti che erano stati annunciati sono rimasti un po' sulla carta. Sarebbero stati forse simbolici da un certo punto di vista, però importanti per dare un'idea di una partecipazione comune a un processo appunto di risanamento del paese, professor Quadrocurzio. Non c'è dubbio. Sarebbe stato necessario del tempo per vedere gli effetti positivi dei tagli nei costi della politica e tuttavia il profilo simbolico e di partecipazione del ceto politico sarebbe stato importante per rassicurare la popolazione, le imprese che certamente stanno soffrendo una crisi grave, che non solo a loro toccava di contribuire a sostenere il paese in questa contingenza di crisi, ma che anche coloro che rappresentano il paese nelle istituzioni si davano carico. Detto questo, naturalmente ci sono due profili da considerare: uno, le cosiddette riforme strutturali, tipo quelle della politica, ma anche altre come il taglio delle province, che per produrre degli effetti richiedono del tempo. L'altro aspetto è di trovare un qualche strumento di intervento che consenta di alleviare il calo del prodotto interno lordo, che obiettivamente quest'anno è pesante. Qui c'è una riflessione da fare sull'Europa, e la riflessione è che l'Europa, l'Eurozona, ha preso una strada di rigore fiscale molto dura nella recessione, probabilmente troppo dura in un contesto di recessione così pesante, e questo rallenta l'uscita dalla recessione stessa dell'Europa tutta. La Germania nel 2011 cresceva al 3,1, un tasso di crescita formidabile, quest'anno, se tutto va bene, cresce dello 0,9. Quindi il crollo della crescita tedesca sta a dimostrare che l'Europa ha intrapreso una strada di rigore eccessivo nel contesto di una recessione grave. Ecco, arrivano le prime notizie sul fronte dello spread. In avvio balza sopra i 340 punti, a 343 punti base, secondo quanto rileva la piattaforma Bloomberg, rispetto ai 323 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano balza al 4,71% rispetto al 4,53%, quindi una 20 centesimi di punto in più per il rendimento del decennale, come appunto rispecchia lo spread. Non sarebbe certamente un dramma, abbiamo visto lo spread a livelli molto più alti. Ecco, ci sono alcuni ascoltatori che di loro SMS dicono: ma i mercati non devono entrare nella politica italiana, non è che possiamo rinviare le elezioni perché i mercati non vogliono. Io forse posso ripetere la domanda che ho fatto prima: i mercati sono importanti, non devono condizionarci, però sono comunque uno strumento che deve essere, che come ricordava lei, professor Quadrio, il fatto dello spread non è solo un valore simbolico, ma è il costo che noi paghiamo per il nostro debito pubblico, che è un debito pubblico molto forte. Quindi è su questo costo che dobbiamo anche fare i conti. Se il costo è più basso, possiamo spendere un po' di più per altre cose, per esempio per la crescita. Ecco, com'è possibile in questa fase di rigidità, appunto, anche europea, pensare di attuare dei provvedimenti per la crescita che diano degli effetti, non dico immediati, ma perlomeno a breve termine, professor Quadrio Curzio? Ma io ritengo che l'autorevolezza e la credibilità di Monti sia tale oggi in contesto europeo che, malgrado si accinga alle dimissioni prossime e future, egli comunque possa esercitare una pressione razionale sull'Europa affinché ponga in essere qualche misura per la crescita. Vorrei fare due esempi. Da un lato, l'Italia ha contribuito al salvataggio di vari paesi dell'Eurozona con quasi 3 punti di PIL, e questo va ad incrementare il nostro debito su PIL, che raggiungerà quest'anno il 126%. In secondo luogo, esistono già degli strumenti europei che possono essere attivati dai singoli stati partecipanti nelle contingenze di necessità ed urgenza. Io credo che l'Italia dovrebbe riflettere molto attentamente se non attivare questi scudi europei, che non porterebbero ad irrigidire ulteriormente le richieste al nostro paese, come peraltro è dimostrato nel caso della Spagna, che ha ottenuto l'aiuto, ma che non ha ottenuto questo aiuto subordinatamente ad ulteriori condizioni restrittive. E questo, in un periodo difficile elettorale come questo, ci darebbe quella protezione, quel parafulmine per evitare che i mercati ci prendano di mira. Sappiamo che taluno afferma: beh, se i mercati ci prenderanno di mira attiveremo lo scudo, ma è molto meglio evitare di essere presi di mira avendo lo scudo a disposizione che usarlo quando ormai di fronte a noi ci sono dei mercati incattiviti. Credo che sia una valutazione che il presidente Monti dovrebbe fare. Non c'è nulla di particolarmente anomalo nel chiedere l'utilizzo di uno strumento che è stato messo a punto nel concerto europeo in una situazione obiettivamente complessa come quella italiana. Ecco, sì, infatti si parla in questi giorni della possibilità di un intervento di questo scudo anti-spread europeo, che non è ancora intervenuto, non è mai intervenuto nei confronti dell'Italia. Indubbiamente il fatto che ci sia è già un motivo in fondo di rassicurazione dei mercati, non è che debba intervenire, già la sua presenza è un fatto che dovrebbe convincere i mercati che non è opportuno puntare troppo l'euro, contro l'Italia soprattutto, perché comunque le difese ci sono e quindi comunque una solidarietà europea importante in questa fase, chiamiamola così, un po' di transizione esiste ed è significativa per l'Italia ed è importante mantenere un rapporto costruttivo con l'Europa, che ricordiamolo, non è solo l'Europa della Commissione, del Parlamento europeo, ma è anche l'Europa della Banca Centrale Europea. Io concordo totalmente su quello che lei ha detto. La solidarietà europea esiste, talvolta non viene messa in chiara evidenza. La Banca Centrale Europea, retta da una personalità di grandissima competenza come Mario Draghi, ha svolto in questi ultimi mesi, da quando Draghi è diventato presidente della BCE, un ruolo cruciale. Quando Draghi nel mese di luglio dichiarò che la BCE era pronta a fare tutto quello che era necessario e aggiunse poi dopo una pausa e vedrete che basterà, vi assicuro che basterà, da quel momento in poi i tassi sui titoli italiani hanno incominciato a scendere con maggiore velocità. Era la presenza di un ente che ha la potenza di intervento, qualcuno dice ha il bazooka, per usare una terminologia popolare, per difendere paesi che hanno tra l'altro i conti pubblici in ordine, perché il problema è che quantunque il nostro debito su PIL sia grande, noi siamo con la Germania il paese che ha il deficit più basso e noi, avendo interessi da pagare alti, abbiamo anche quello che si chiama l'avanzo primario più grande rispetto al prodotto interno lordo. Quindi noi non stiamo chiedendo un soccorso perché stiamo crollando, ma eventualmente chiediamo un intervento proprio perché, come si dice ancora in gergo popolare, abbiamo fatto i compiti a casa. Quindi non è una richiesta di ospedalizzazione, ma è una richiesta di un intervento preventivo per non essere poi ospedalizzati, certo, non per causa nostra, ma perché i mercati sono molto aggressivi sempre. Ecco, infatti in questa fase siamo portati più a guardare quello che non funziona che non quello che funziona. Lei giustamente ha ricordato come i nostri conti pubblici siano sostanzialmente sani, anche se abbiamo questo grosso debito pubblico, e non dimentichiamolo, non abbiamo il tempo di approfondirlo adesso, che anche la realtà imprenditoriale, industriale italiana è una realtà in fondo sana, lo dimostra l'avanzo commerciale che rispetto agli anni scorsi abbiamo conseguito nei primi mesi di quest'anno. Io ringrazio il professor Alberto Quadriocuzzo di essere stato con noi. Tra poco approfondiremo i temi della realtà sociale italiana con il direttore generale del Censis Giuseppe Roma. Il Censis ha presentato il suo rapporto dei giorni scorsi, vedremo anche sotto questo profilo come sta andando l'Italia, con notizie su questo fronte non troppo positive, ma la speranza deve essere guidata anche dal rendersi conto della realtà in cui viviamo. Grazie e a tra poco. 24 mattino. Eccoci di nuovo a voi, buongiorno da Gianfranco Fabio per quest'ultima parte di 24 mattino che dedichiamo al rapporto del Censis, allo stato della società italiana, rapporto presentato venerdì scorso e che come tutti gli anni fa il punto sulla situazione sociale, sulla realtà del paese, il Censis presieduto da Giuseppe De Rita, ed è qui con noi il direttore Giuseppe Roma. Buongiorno e grazie Giuseppe Roma. Buongiorno, buongiorno a lei. E buongiorno anche a Rossella Bocciarelli, giornalista del Sole 24 Ore, che ha seguito il rapporto e che segue queste tematiche. Buongiorno Rossella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dottor Roma, il rapporto del Censis è sempre un punto fermo sulla visione che si ha della società. Ecco, in sintesi, quale può essere, come sarà ricordato questo rapporto 2012? Qual è la fotografia dell'Italia in poche parole che emerge da questo rapporto? Ma noi facciamo un rapporto ogni anno, quindi questo è un po' il quadro del 2012. Noi abbiamo avuto sia un'economia e una società in forte disagio, e lo sappiamo, e quindi non c'è bisogno di ridirlo. Però questa specie di lotta per la sopravvivenza in un contesto difficile ha in qualche modo sviluppato una forza di resistenza e anche una forza e qualche segnale di reazione. Quindi la società e il suo ceto medio ha uno smottamento verso il basso, ma sta cercando di risalire la china, e soprattutto l'economia abbiamo potuto registrare diversi cambiamenti positivi. Quindi non siamo assolutamente né ottimisti né positivi, però è pur vero che è una società che si muove, e rispetto agli anni passati, quando sembrava invece molto impaurita e molto ferma. Quindi la società che si muove verso il basso sotto il profilo dei redditi. Voi segnalate come per esempio la percentuale dei ricchi sia diminuita, ma soprattutto sia diminuita la possibilità di reddito e la possibilità dei consumi da parte del ceto medio, che può essere considerato un po' un nucleo centrale di una società come quella italiana, che è comunque una società evoluta, industrializzata. Quindi un ceto medio che è sempre più in difficoltà e che rischia un po' di scomparire, come ha detto qualcuno, dottor Roma? Beh, un po' esagerata, come il ceto medio è il 60% della società, quindi è difficile che possa scomparire. No, quello che lo descriviamo secondo me abbastanza bene, anche un po' in controtendenza, non è tanto il semplice impoverimento del ceto medio. Guadagnavo 100 e adesso guadagno 80, non è questo il fenomeno. La realtà è che noi ci troviamo di fronte a nuove famiglie, un turnover generazionale, meccanismi di mobilità che si sono leggermente fermati, per cui abbiamo nel ceto medio una minore capacità di reddito e di risparmio, e soprattutto l'apporto delle nuove famiglie è molto a basso reddito. Quindi se noi andiamo a guardare un po' da lontano, in questi 20 anni, in fin dei conti, la ricchezza degli italiani è aumentata molto, gran parte per la rivalutazione degli immobili, ma è persino un certo andamento verso l'alto c'è stato, perché chi oggi possiede più di 500.000 euro 20 anni fa era il 6%, adesso è il 14%, e anche chi non possiede nulla, diciamo gli strati più disagiati della popolazione, sono scesi dal 35 al 30%, quindi in questi 20 anni in cui ci è sembrato veramente un paese totalmente statico, qualcosa è successo. Ma cosa succede? Che se le nuove famiglie sono giovani, che hanno un basso reddito e che quindi non possono rifare un po' la saga italiana, che è quella di iniziare dal basso, poi risalire, avere un po' di risparmio, con quello comprare una casa e andare avanti. Tutto questo è fermo. Se abbiamo un 7% di famiglie di immigrati e la metà guadagna in un anno meno di 15.000 euro, è chiaro che le nostre medie vanno ad abbassarsi. E poi c'è una grande differenza fra i nuclei giovani e i nuclei più anziani. I nuclei più anziani, naturalmente ci sono pensionati che hanno grande difficoltà, ma nella gran parte sono abbastanza tranquilli. Quindi questo smottamento del ceto medio deriva da una nuova composizione sociale in cui i nuovi arrivati, sia giovani, immigrati, nuove famiglie, sono molto in difficoltà, e il resto resta più o meno stabile. Quindi una realtà dinamica in cui soprattutto i nuovi arrivati, ma anche appunto i giovani, che possiamo considerare nuovi arrivati, non solo gli immigrati, hanno maggiori difficoltà. Vi ricordo il 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, l'800-24-00-24 per le vostre telefonate. Ecco, vorrei chiedere a Rossella Bocciarelli su questo rapporto come è arrivato, cioè qual è stata la sorpresa maggiore da parte degli osservatori esterni di fronte alla presentazione di questo rapporto. Rossella Bocciarelli. Dunque, io appunto anch'io ho notato il fatto che la rilettura di tutti quanti questi dati, che certamente non sono belli, soprattutto se si considera la dinamica congiunturale dell'ultimo anno, perché è ovvio che gli elementi di base sono quelli che sono, cioè il drastico calo dei consumi, le famiglie in difficoltà per cui il 30% non arriva alla fine del mese, aumenta l'indebitamento, eccetera, eccetera. quindi un quadro certamente non bello dal punto di vista congiunturale, che però viene rianalizzato anche alla luce appunto di aspetti più dinamici e di capacità dei soggetti poi di appunto andare oltre questa fase durissima, cioè che tutti sappiamo essere durissima. Però appunto con per cui ciascuno come dire dà il suo contributo all'interno per esempio delle famiglie, c'è un ruolo anche molto importante per le donne che sono appunto dei manager della spesa, allora magari si inventano danno molta importanza all'e-commerce, quindi fanno le cose, cioè, poi vabbè ci sono gli aspetti autarchici che vengono messi in evidenza dal rapporto sul fatto che appunto c'è chi si coltiva l'orto in casa piuttosto che riscopre la bicicletta, piuttosto che fa il bed and breakfast eccetera, cioè si ingegna. Però a parte questo aspetto diciamo dell'arte di arrangiarsi, che poi in fondo è anche un po' una costante italiana, c'è anche invece un cercare di tenere il passo anche con quello che ti mette a disposizione appunto l'innovazione tecnologica, la rete, le cose eccetera. L'altra cosa che mi ha colpito molto è un aspetto legato alle scelte familiari rispetto ai figli, rispetto allo studio. Il Censis appunto mette in evidenza il fatto che stanno emergendo nuove consapevolezze, cioè nel senso che appunto le persone, intanto le famiglie si stanno rendendo conto del fatto che a volte il tipo di laurea è inadeguato al mercato del lavoro eccetera, e quindi c'è chi si riconverte sull'istruzione tecnico-professionale e c'è chi può invece anche al prezzo di grandi sacrifici e manda i figli a studiare all'estero, no? E quindi c'è stato questo forte aumento di scelte appunto di mandare i ragazzi a studiare in Inghilterra per esempio, piuttosto che... E questo secondo me tra l'altro è anche una testimonianza del fatto che non è poi così tanto vero che le famiglie italiane sentono distante l'aspetto dell'integrazione economica, perché si vede sulle cose sulle scelte, certo, che fanno per i loro figli, cioè mandare i figli, certo, a studiare all'estero è un segnale di fiducia nel fatto che c'è l'Europa, c'è l'integrazione europea. Sì, ecco, questo può essere però anche un segno forse di una fascia alta, bisogna anche guardare un po' del suo complesso, una società che ha difficoltà e che appunto nel rapporto si dice che i tempi si erano fatti cattivi ed è servito uno scatto di discontinuità rispetto ai precedenti modelli di comportamento pubblici e privati per ricalibrare i pregiudicati rapporti con i partner europei, le autorità comunitarie, i regolatori dei mercati finanziari. Ecco, uno scatto di discontinuità nei comportamenti, questa mi sembra una dimensione significativa, dottor Roma. Sì, in realtà noi appunto segnaliamo questa discontinuità sia in ambito istituzionale che in ambito socio-economico. Abbiamo già parlato di quante cose, come diceva giustamente Rossella Bocciarelli, cioè questo cambiamento di mentalità, la formazione non più come un fatto generico, ma qualcosa più finalizzato a imparare a fare qualcosa, a professionalizzare, che riguarda poi il 78% delle famiglie, quindi non è solo una consapevolezza d'élite. E dall'altra parte però abbiamo avuto una forte discontinuità che forse si sta concludendo col governo tecnico. Ecco, se possiamo dire quali sono le ombre, visto che la discontinuità rispetto a un passato in cui avevamo problemi di rapporto con l'Europa o le famiglie avevano problemi di reagire a uno stato di difficoltà, e che poi questi due mondi in realtà non riescono a parlarsi molto bene, quella ragazza che oggi sarà a Oslo per il premio della pace, in cui dice la pace è un fare ponte, no? E qua bisognerebbe far ponte anche fra queste due discontinuità, una discontinuità istituzionale e politico-istituzionale che è durata un anno col governo tecnico, e una discontinuità delle imprese e delle famiglie. No, se queste due discontinuità non fanno ponte, è difficile che ci sia crescita e sviluppo. Ecco, sì, la necessità appunto di una riaggregazione, forse di ritrovare dei valori comuni, ne riparliamo più tardi, sono anche degli ascoltatori che ci stanno chiamando, diamo un piccolo spazio alle notizie sul traffico. Mandare i figli all'estero significa sfiducia nel sistema italiano e non fiducia nell'Europa, è uno dei messaggi che ci stanno arrivando, che commentano un po' quanto abbiamo detto su questa realtà italiana, una realtà fotografata dal rapporto del Censis che mette in luce le difficoltà ma anche le spinte di sopravvivenza, ma spinte anche di cambiamento che ci sono presenti nel paese per rispondere in maniera nuova ai nuovi problemi che dobbiamo affrontare. Sentiamo Vito da Lodi, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Ma riguardo agli intervenuti prima di me, lavorando io in un contesto come quello bancario e seguendo le aziende, vedo un'estrema difficoltà oggi a far fronte a quelle che sono le spinte anche a livello europeo e alla competitività di altre nazioni a noi confinanti. Purtroppo noi siamo vittime, ahimè, sembra un vecchio disco, di uno Stato che drena parecchi soldi ai cittadini per andare a supplire laddove c'è anche un'evasione di imposta che è molto molto elevata. Questi sono mali già conosciuti. Per migliorare rispetto a questo occorrerebbe secondo me un cambiamento radicale proprio a livello culturale da parte nostra, per misurarci meglio anche con altri competitor europei e poter permettere che i nostri giovani, io ne conosco parecchi, che ahimè sono delle eccellenze ma che purtroppo sono costretti ad andare all'estero, anche perché c'è una vecchia classe dirigenziale, mi riferisco a tanti professoroni a livello universitario così, che monopolizzano molto i loro posti di lavoro, dando spazio solamente agli amici degli amici degli amici. Grazie, la sua analisi è indubbiamente largamente condivisibile sull'immobilismo della realtà italiana e sull'immobilismo anche di quelli che sono i centri di potere italiani. Angelo da Catania, rapidamente se possibile. Sì, pronto, buongiorno. Innanzitutto vi ringrazio per la possibilità che date nel vostro programma, veramente, a noi che non abbiamo voce. Io sono parte di quelle famiglie invisibili, oggi come oggi siamo famiglie invisibili, io ho tre bambini, li mando a scuola senza libri, questo Stato non sta facendo proprio niente per noi, famiglie in difficoltà con lo sfratto in mano, io mi trovo oggi con lo sfratto in mano a casa, mi è arrivato lo sfratto da parte del proprietario della casa, perché giustamente da 4 mesi, e questo che sta correndo, sono quasi 5, che non ho potuto pagare l'affitto, perché non ho una fonte di ingresso, dove vado a chiedere lavoro, è diventata una barzelletta, le persone ti ridono, ti dicono ma dov'è questo lavoro, non c'è niente, e quindi noi genitori, e siamo disperati, non sappiamo cosa fare, non c'è quel diritto che c'è scritto sulla Costituzione di avere un lavoro, semplicemente un lavoro. La ringrazio di questa testimonianza, sicuramente drammatica, ovviamente la nostra solidarietà, non è che possiamo affrontare il problema, diamo spazio anche a queste voci, che ci ricordano di un paese che è largamente in sofferenza. Dottor Roma, direttore generale del Censis, ecco, sono realtà purtroppo non solo singole, sono realtà diffuse, anche queste, di una nuova povertà che sta emergendo nelle famiglie. Le due telefonate rispecchiano veramente l'Italia, perché la distanza fra il nord e il sud sta diventando una distanza enorme. Se abbiamo un problema di domanda di lavoro in generale, ed è per questo che poi i nostri figli, anche il mio, poi vanno a lavorare all'estero, è evidente che nel mezzogiorno, dove già le distanze e il punto di partenza è molto, molto lontano dalla media europea, è chiaro che noi ci troviamo in una situazione ancora difficile. L'ascoltatore di Lodi, io avrei sottoscritto dalla prima all'ultima parola tutto quello che lui ha detto, è esattamente la verità delle cose, però io penso sempre, ritorniamo a quella divergenza che c'è fra una società che soffre o che reagisce e le istituzioni. Ma come è mai possibile che nel Mezzogiorno d'Italia, dove ci sono decine di miliardi da investire per creare opportunità di lavoro, noi abbiamo dei problemi così drammatici proprio di sopravvivenza? È evidente che c'è uno iato molto forte che fa creare quella situazione che abbiamo definito la situazione di rabbia, perché lei capisce, se non ci fossero risorse, se fosse solo un problema di crisi economica, se fossimo davvero impossibilitati a fare un minimo di attenzione a questa questione, sarebbe giustificabile. Ma se noi abbiamo da anni, soprattutto in regioni come la Sicilia, la Campania, le regioni cosiddette della convergenza, abbiamo decine di miliardi che non vengono spesi o vengono spesi male, intendendo come occupazione il fatto che il pubblico occupi la gente, perché questo è l'errore più clamoroso, cioè la pubblica amministrazione deve creare le condizioni per cui poi le imprese, il mercato, le persone, il lavoro autonomo creino opportunità di lavoro. Quindi abbiamo veramente la mentalità che si diceva al nord, gente che magari non è pienamente fedele fiscalmente, ma nel sud è ancora peggio, perché è una mentalità trasversale che porterà ancora ad aumentare le distanze. Guardi che al 2020 l'Italia sarà un'Italia da 63 milioni di abitanti, ma 4 milioni in più al centro-nord e 1 milione in meno nel mezzogiorno. Ci sarà un impoverimento, perché queste condizioni che sono state denunciate sono effettivamente molto drammatiche, soprattutto al sud. Sì, anche questo cambiamento demografico sarà un cambiamento che non agevola la ripresa del sud, dove mancheranno appunto le forze giovani che emigrano verso il nord, verso altri paesi, e si spostano ancora, c'è ancora un movimento dal sud verso il nord. Vi do due notizie prima di avviarci alla conclusione. Un ascoltatore ci dice: è bloccato a Mestre nel traffico e non riesce a raggiungere Venezia, è bloccato da più di un'ora. Chi deve andare da Mestre a Venezia o verso Mestre appunto sappia anche questo. Ci aggiorniamo anche su questo fronte. E invece sul fronte dei mercati finanziari, lo spread sfonda la soglia di 350 punti, è una notizia di due minuti fa. Il rendimento di BTP decennali balza al 4,78 e sono le prime contrattazioni. La borsa aprirà ufficialmente alle 9, ne parlerà anche Oscar Giannino, che tra pochi minuti sarà qui con noi. Ma ecco, ci avviamo alla conclusione sul fronte del rapporto Censis, e molte segnalazioni appunto attraverso i messaggi SMS ci dicono appunto che il problema è soprattutto quello dello Stato. Rapidamente, Rossella Bocciarelli, questa fiducia dello Stato non sembra essere aumentata negli ultimi tempi. Ma per la verità, ecco, come dire, anche qui abbiamo due indicazioni divergenti, nel senso che effettivamente la gente, come dire, sperimenta la durezza della recessione, e quindi questo fa scendere gli indicatori di fiducia di famiglie e consumatori, eccetera. Contemporaneamente però una cosa che invece non dobbiamo vanificare era quel recupero di fiducia che era stato acquisito sui mercati, perché insomma come dire, il Censis mette in evidenza che la gente ha sentito in questo anno molto distante l'idea, oddio lo spread, viviamo appesi allo spread, che cosa significa? Significa poco per noi. Però forse se noi gli spiegassimo un pochino meglio, questa è anche una responsabilità di noi giornalisti. Certo, spiegare meglio, scusa, devo interromperti Rossella Bocciarelli, ma siamo in conclusione del nostro programma, i tempi sono tiranni. Ringrazio Giuseppe Roma, direttore del Censis, ringrazio Rossella Bocciarelli, ringrazio quanti ci hanno seguito. Abbiamo cercato di dare un'immagine di questo paese difficile, ma in cui le soluzioni sono sicuramente più dei problemi. Grazie e a lunedì prossimo.